YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, che bello che tornare bello. Alla terza ora dopo il giornale radio con Daniele Bellasio in studio, la mia ora preferita del sabato pomeriggio. Peraltro. Come è andata a Escita? A Escita, allora, gli ascoltatori non sanno che tu chiami Escita lo Eurovision Song Contest. Gli ascoltatori non capiscono l'hashtag perché sbaglia. È andato molto bene, ne abbiamo parlato anche adesso con Eddie Anselmi. La mia mitica Michieling, lì, no, come si chiama? No, Michieling. Francesca, se l'è cavata bene, è arrivata sedicesima, poteva arrivare anche un po' più in alto. Ha vinto l'Ucraina, no? Scandalo, ha vinto l'Ucraina, casino, caos. Poi riascoltati il podcast perché ne abbiamo parlato con il nostro Eurovisionologo. Cioè, mi stai sottolineando che non ho seguito le prime due. Ma no, stavi scendendo in radio, non hai sentito. Va bene, allora, noi qui mostriamo alla radio il meglio della settimana, del mese, dei video, di tutto. E voi potete scriverci, perché i nostri account di Twitter sono @MartaCagnola, @DiBellasio, l'hashtag RadioTube, l'hashtag ISDV. Ma dobbiamo salutare, ma parlandone con gioia, perché sennò lui si incavolerebbe, anzi si incazzerebbe. Giusto, mi pare, mi piace questa scelta. Parliamo con passione di Marco Pannella. Allora, ne parleremo molto in questa trasmissione, come giusto che sia. Intanto però vorrei così introdurre il tema del quale poi parleremo tra pochino. Finta apertura. Ragazzi, alla radio si chiama finta apertura. Ma sì, che tu cominci a parlare di un argomento che anticipi poi, perché è il più importante, ma ne parli dopo con un pochino più di spazio. Allora, ma tu devi svelare tutti i nostri segreti. Ma perché se lo imparo? È un corso. Come sto facendo io da 3 anni con te il corso di... Ammazza, sei messo conduttore. Malissimo. Vabbè, al decimo anno magari passo le selezioni, che vedremo, ne so. Vedremo. Comunque, perché si chiamava e si chiama Marco Pannella? E ce lo racconta lui, Marco Pannella. Papà mi dette il nome Giacinto, mamma accettò per via di zio Giacinto, pro zio Giacinto Monsignore, per il quale mio papà aveva una venerazione, e anche mamma, devo dire. Però convennero subito che sarei stato chiamato Marco, perché per mamma Giacinto si traduceva in Jacinthe, e Jacinthe era il nome che si dava alla recluta della guerra mondiale a tre narici, scemo. E quindi dice no, e infatti in quel momento fui Marco. Beh, che bella questa spiegazione. Questo era tratto da Il Mio Novecento, una trasmissione che è andata in onda, andò in onda un po' di anni fa su Rai 3. Mm-hmm. E mi pare di Bizzarri. Era sì, certo. E dove Marco raccontava appunto il suo Novecento di battaglie. Ma su Marco ci torniamo. Sì, sì, ci torniamo. Abbiamo anche un ospite col quale parlare dopo la pausa. Altri argomenti della settimana? Beh, la Rai. Oh, finalmente parliamo di Rai. Non c'è la par condicio. Si può parlare della Rai? No, Rai non credo. Non possiamo parlare di amministrative, ma non è che non possiamo parlare di tutto. Della Rai. Ma com'è sto fatto che la grande innovazione della Rai adesso è che niente, Giannini non c'è, non si sa. Allora, io di Giannini non ho ancora avuto nessuna notizia certa, però Porro pare che abbiano detto. Esatto. Tra l'altro ha anche raccontato era perché Renzi, lui aveva invitato Matteo Renzi in trasmissione, Renzi gli aveva risposto hashtag non stare sereno. Che secondo lui voleva dire no, vengo, quindi non puoi stare sereno, però di fatto poi dice però sta trasmissione poteva andare avanti, non andrà avanti. Però gli hanno offerto un'altra cosa, adesso Nicola Porro ci sta pensando, che anche sapete, no, lavora anche al giornale, esperto di economia, ci sta pensando per una trasmissione la domenica sera contro i telegiornali. Ecco, non è proprio una controproposta di quelle magari funziona, diciamo che la Rai vuole innovare, io cambiare. Ho da fare qua, perché qua devo rispondere al questionario. So che questa cosa che si chiama cambierai, giusto? Sì, perché io il canone l'ho sempre pagato e io ho cominciato a postare, quest'anno ovviamente non l'ho potuto ancora fare, a postare la foto del canone pagato. Quest'anno devi mettere una bolletta dell'elettricità. Sì, una bolletta. Così sappiamo quanto consumi, anche in perché, phon. Perdonami, ma... sì, nei miei capelli, no, effettivamente. Il phon prende, ma ci sono tante altre cose. Quindi fanno cambierai. Questione questionario ho questionario. Da fare, perché sono qua che lo sto compilando. Sì. Allora, te ne faccio che qualcuna? Che conduttrice volete prendere da una radio? No, no, non c'è questa. No, non c'è. Non volete. C'è. Una giornalista con i ricci e gli occhiali da hipster? Non c'è. Non c'è, quella non c'è. Senti, allora. Fammi delle domande. Allora, il servizio pubblico dovrebbe basarsi sui principi di universalità, qualità, eccellenza, diversità, trasparenza, responsabilità, indipendenza e innovazione. Allora, poi te le ripeto una alla volta. Sì, potrebbe indicare quanto l'attuale servizio pubblico rispetta, secondo lei, ciascun principio? Molto, abbastanza, poco, per niente, non so. Allora, universalità. Abbastanza poco. Ah, ok. Universalità è fatta per dai 50 anni in su. La... Ah, ecco, interessante questo spunto. Qualità, eccellenza. Com'era? Quello medio. Diversità. Sì. Poco, direi poco. Ah, poco trasparenza, poco. Responsabilità. Più di quanto non si pensi. Bene, non c'è nelle colonne, però. No, secondo me più di quanto non ci pensi. Per questo che il pluralismo va tutelato. Indipendenza. Innovazione. Ecco, innovazione, diciamo che Campo Dall'Orto ha molto da fare. Molto da fare in campo, nel campo dell'innovazione. Peraltro non che le TV, le altre televisioni innovino poi così tanto, eh? Certo, allora questa è difficilissima. Ma domande più gossip non ci sono. No, sono toste. Sono sulle emissioni del servizio pubblico. Ah, non c'è, volete tenere Tizio Caio? No. No, allora volevi tipo Torre? Ma sì, volevo. Volete il talk show politico? Sì, no, forse. Volete Porro la domenica sera? Sì, no. No, forse. Volete i grandi eventi Miss Italia? Sì, Sanremo deve restare per sempre. Okay. C'ho un contratto a vita per Sanremo. La Rai non può non avere gli eventi. Allora, in altri termini c'è, ad esempio, secondo una celebre definizione di John Reith, non è un quiz a premi, primo direttore generale della BBC, i compiti fondamentali del servizio pubblico sono quelli di educare, informare e intrattenere. Indichi per ogni compito, il candidato no, quanto ritiene che sia ancora importante. Educare, molto, abbastanza, poco, per niente importante? No, è importante. Molto? Molto. Informare, molto, abbastanza, poco, per niente? Moltissimo. Intrattenere, molto, abbastanza, poco, per niente? Per niente, perché deve intrattenere? Ah, vedi, questa è una posizione interessante. Cioè, una quindi sola. Daniele Bellaso dice intrattenere. No, no, magari l'ammiraglia sì, ma intanto tre reti generaliste sono decisamente troppe. Due andrebbero privatizzate. Ecco, io penso che due andrebbero privatizzate, però questo Vabbè, lo penso io. Poi ti do il link per fare il questionario sulla Rai. Ma sono tutte così serie? Sono tutte serissime. Neanche un gossip, quelli di piccoli. No, no, no. Quale no, conduttore no, preferisci? Vuoi Ale Cattelan? Sì, lo voglio. No, si può dire. Ok. Qual è il più preoccupata? Ti vedo dallo sguardo. Urca. Sei preoccupata. Qual è il più bravo? Qual è il più bello? Il non Rai ci sono. Il più bravo. Beh, Fazio è bravo. Fazio è bravo, sì. Beh, no, è bravissimo. Conti è bravissimo. Conti è bravissimo. Io voglio più Flavio Insina. Insina è bravo, tanto, mi piace tanto, molto. È stato con simpatico. Noi lo scorso Però a me sabato. Piace anche che è un po' secchione. Come si chiama? Non mi viene. Quello che una volta aveva gli occhiali, adesso non ce li ha, il preserale. Fabrizio Frizzi. Frizzi mi piace. Vabbè, insomma, educato. Dai. A Filippo in regia sì e no. Ah, perché dire? Io non lo vedo, perché c'è il riflesso della luce, perché mi sono spostata. Vabbè, allora, traffico. Io poi ti lascio il link per fare il questionario sul servizio pubblico. Ma poi ti danno pubblico? Dei voti? No. Ti danno uno sconto sul canone? No. Cosa ti danno? Niente, però hai partecipato. Libertà e partecipazione. Daniele, va libertà bene, e partecipazione. Parliamo di libertà dopo il traffico. Tra pochissimo, dopo il traffico. Radio Tube. Guarda, la pensione a 50 anni è una coglionata, poi ne parliamo. Perché la pensione, che era una battaglia di liberazione 60 anni fa, oggi rischia di essere una condanna alla morte civile di donne e uomini che hanno il diritto, la pienezza, la capacità di lavorare. Le prime pensioni, le pensioni ai funzionari di partito, le pensioni ai parlamentari, le pensioni ai dirigenti, ai consiglieri regionali, provinciali, comunali. Le pensioni a tutti e la pensione ai parassiti! Noi dobbiamo rivendicare il diritto del tempo libero e del tempo di lavoro in un ambiente diverso per tutti a 70 anni! Si è perché ne hanno parlato poco, ma ha avuto un sacco di ragioni anche sul fronte dell'economia. Siccome siamo a Radio 24, e mi sembrava giusto, no? Mi sembrava giusto parlare anche di una, perché ovviamente i diritti civili, ovviamente la carica comunicativa, ovviamente le battaglie di libertà, però ma anche Marco Pannella, ma Marco Pannella ha detto delle cose, questo era un comizio del 1987 e denunciava le baby pensioni, problemi. Oggi di che cosa stiamo parlando? Del debito pubblico che è andato su, delle pensioni a scapito delle generazioni future. E nel corso degli anni, quando si parlava di Marco Pannella e dell'economia, si parlava essenzialmente di una persona che sì, oggi è sottosegretario agli esteri del sì, governo Renzi, e che abbiamo al telefono Benedetto Della Vedova. Ciao. Buonasera Benedetto Della Vedova. Ciao, buonasera, un saluto a tutti. Partiamo lateralmente, come piacerebbe forse a Marco. Partiamo dall'economia. Che cosa è stato Pannella per l'economia italiana? Ma innanzitutto non partiamo troppo lateralmente, perché questa cosa delle pensioni che voi avete appena ritrasmesso non è che è profetica, è una cosa di governo, la pensione, contro la pensione a 50 anni in quegli anni. Ma poi il debito pubblico, negli stessi anni, quella legislatura 83-87, ma i radicali presentano una legge per il rientro automatico, una cosa seria, ragionata, dal debito pubblico, nel momento in cui la politica era impegnata a far consenso col debito pubblico. E se poi andiamo, poi la scala mobile naturalmente, Pannella dalla parte certo, e poi arriviamo agli anni 90, il referendum contro la cassa integrazione straordinaria, il referendum sulla liberalizzazione del mercato del lavoro, il referendum contro l'articolo 18, e mi fermo qui. Il Marco discepolo di Ernesto Rossi è il Marco che si è mosso, il Marco Pannella, che si è mosso da riformatore a 360 gradi, da riformatore liberale sui temi dell'economia, non in modo secondario o... E com'era nel dialogo sui temi dell'economia, visto che tu, do del tu perché ci conosciamo, eri la persona con cui lui si confrontava di più? Gran parte dei referendum che hai citato, diciamo, sono parte delle riflessioni che faceva con te. Ma lui era fortemente intuitivo e aveva questo aspetto di logica e di buonsenso, e questa carica sociale potente, no? Cioè, dove la carica sociale era quella dell'abolire la miseria di Ernesto Rossi, che non era pauperismo, ma era la denuncia del sindacato reazionario, della sinistra reazionaria. Quindi la sua polemica, virgolette, liberista, era contro la sinistra, e il fatto che 20 anni dopo sia arrivato un libro con un titolo Il liberismo è di sinistra, Giavazzi e Alesina, Pannella usava gli argomenti che la caricatura della sinistra di allora, di 25 anni fa, guidata dalla CGIL, diceva: ah, questo liberismo di destra, eccetera, eccetera. Lui li ha sempre usati, a mio avviso nella chiave giusta, li abbiamo sempre usati come argomenti, virgolette, di sinistra, se la sinistra doveva essere, poi ormai tutto in qualche modo superato, se la sinistra doveva essere l'attenzione a dare opportunità a chi non le aveva. Io vorrei riportarvi un attimo sulla notizia della scomparsa e sull'emozione che ha portato con sé la notizia della morte di Marco Pannella, soprattutto in rete, ma non solo. Coro unanime di dolore, di dispiacere. Io ieri mattina, di elogi, ieri mattina ho ritwittato un tweet di Andrea Salerno che scriveva: con tutti questi ammiratori di Pannella stamattina sui giornali, portare avanti le sue battaglie sarà una passeggiata. Sì, facile. Ecco, che reazione avete avuto, e che reazione ha avuto in particolare Benedetto Della Vedova nel vedere questo coro unanime, che forse non ha accompagnato né le battaglie di Marco Pannella per tutta la vita, né la carriera politica di Marco Pannella per tutta la vita? Ma guarda, ti rispondo dopo aver telegraficamente ricordato che noi nel 94 organizzammo una manifestazione, sfilammo in fila indiana perché non eravamo adeguati alle piazze della CGIL, contro la piazza della CGIL, per difendere la riforma delle pensioni Berlusconi-Dini 94, quella che Berlusconi abbandonò, prestato dalla Lega, e poi alla fine fine cadde, insomma, tutto si tiene. L'impressione che ho avuto da questo coro unanime, se devo confessare la verità, io non ho avuto tanto un'impressione di fastidio per l'ipocrisia, il gusto italico di l'Italia è un grande paese nei funerali, no? In cui ci si stringe, si scopre il sento patriottico. Tutto questo, diciamo, è vero, un pezzo della storia, è un pezzo dell'autobiografia della nazione. Io credo però che, come dire, sia anche davvero un onore delle armi sincero del popolo italiano, a cui poi anche la classe dirigente in qualche modo si è adeguata, e anche chi l'ha osteggiato e ostracizzato poi si è trovato a rendergli omaggio. Secondo me è anche un segno che poi alla fine ha vinto lui, non da un punto di vista, non da un punto di vista politico, cioè non penso che tutte le cose che lui ci ha lasciato come obiettivi politici che potrebbero alimentare 25 anni di lotte liberali si avvereranno, perché gli hanno riconosciuto la grandezza. Però sicuramente alla fine ha vinto lui. Io trovo più questo che non l'aspetto, che pure c'è, del conformismo e della, cioè ha vinto lui, si è imposto, perché in un mondo in cui ormai, lo dico da politica, i politici generalmente urlano e fanno cose eccentriche nascondendo il vuoto di idee, di proposte concrete, lui se n'è andato in modo un po' controintuitivo, se vogliamo, rispetto a quello che uno avrebbe potuto immaginare, con un mese di comunicazione fatta di foto e di dolcezza e di sorriso. Sì, ne avevamo anche parlato in una puntata di RadioTube, perché era stata una cosa particolare. Io devo dire che in questo coro ci vedo anche il fatto che lui, essendo un politico che stava per strada, in realtà noi l'abbiamo vissuto, noi italiani, come un politico che entrava nelle nostre case. Lui, nelle nostre conversazioni, nei nostri problemi quotidiani, lui entrava, era uno di casa, come ha scritto nel suo manifesto politico, nella prefazione del libro di Valcarin. Lui proprio si occupava dei discorsi che fanno le persone normali a casa loro, pur essendo o sembrando spesso un politico molto alto anche nel modo di parlare, era uno di casa. E la cosa bella è che nella parte finale della sua battaglia, più che della sua vita, ci ha fatto entrare in casa sua. Quindi vero, era lui prima nelle nostre case e poi dopo noi nelle sue. Benedetto, io vorrei chiederti una cosa che forse è un po' personale, però insomma, siccome lo dobbiamo ricordare, qual è il primo ricordo che ti viene in mente di Marco? Guarda, tuo. Ho tanti ricordi radiofonici, io studiavo a Milano e il fine settimana mi chiudevo in casa per ascoltare i congressi. Non eri l'unico, non eri l'unico, ammetto. A cui ancora non partecipavo. E poi mi ricordo che la prima volta che ci siamo, che sono stato, dopo essere entrato in una segreteria radicale, in una riunione in cui io ero a bocca aperta perché stavo con Pannella, con Notara, seduto allo stesso tavolo di riunione, e il giorno dopo, però, perché l'avevo preso prima, avevo un biglietto aereo per partire per un viaggio, e Marco esordito dicendo: no, guarda che adesso chiamo e ti faccio cancellare il volo, mi è gelato il sangue. E poi Emma ha detto: no, guarda che hai già provato a fare una cosa di questo tipo e non è andata bene. E a distanza di un mese e mezzo, appena tornato dal viaggio, mi incontro con Pannella a Milano e lui mi dice: ah, c'è un sacco di cose da fare, dobbiamo fare qui a tutta Argentina, un sacco di cose, cioè. E gli dico: sì, Marco, va bene, però io non lascio il lavoro e non mi trasferisco da Milano. E la settimana dopo mi ero licenziato ed ero a Torre del Sentina a lavorare, non da parlamentare, fortuna che ho avuto dopo, ma per fare i referendum, in particolare quelli economici, di cui abbiamo trattato prima. Così va la vita, così va la vita. Che bello aver avuto questo ricordo di Benedetto Della Vedova, ora sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. L'ho detto, spero, per bene. Grazie a Benedetto Della Vedova per essere stato con noi. Buona serata. Grazie. Ma sai che è stato anche a Drive-In? Ma non so se... Sì, ma io me lo ricordo... 80... Te lo ricordi? No, non me lo ricordo da allora, anche se lo guardavo Drive-In, però io mi ricordo... È stato Drive-In, lui ha rotto schemi pazzeschi, Pannella, eh. Era andato a fare una Tribuna drive-in. Politica col Bavaglio, poi Drive-In, il Maurizio Costanzo alla povera Alda Deusanio, Alda Deusanio che prima ride, poi dice la morte, le guardie, ti regalo il mio arresto, gli ha detto un grande, beh, una grande pagina, grande. Salutiamo, ciao Marco, ci ritroviamo. Radicalaccio diceva, ci ritroviamo tra poco. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportaggi, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. YouTube. Che poliziotto, Johnny Bassotto, come una freccia nella notte schizza via. Passa dal tempo, entra nel letto, d'ogni bimbo che racconta una bugia. Beh, non potevamo non ricordare anche Lino Toffolo, perché in rete tanti hanno... Il simbolo di Venezia. Tutti i quarantenni che affollano i social network. Tutti hanno... per Lino Toffolo. Era molto... un... Com'era quella trasmissione dove lui era... tipo risatissima si chiamava. Ah, ma sì, tu ti ricordi premiatissima, quelli di Canale 5, quelli di Canale 5, grandissimo. Veramente e poi il carosello della marmellata, ma quello però era prima, però quello era prima, infatti, sì. Te lo ricordi tu per quei sei mesi, per quell'anno? Vabbè, sono più vecchia di un anno. Senti, di facciamo un giro d'Italia, siamo pronti per partire, però un po' culturale, un po' smagato, così dice smagato, si dice mostriamo già un pezzettino alla radio? Ma mostriamolo volentieri. Mostriamo un pezzettino alla radio del nostro Giro d'Italia. Ecco particolare. Qua. Sono arrivato a Sestola partendo da Campi Bisenzio, in una tappa che normalmente si misurerebbe in chilometri, ma che noi invece misuriamo in gradi di separazione. Per esempio, quanti gradi di separazione ci sono tra una famiglia marocchina di Prato e un arci italiano come Curzio Malaparte? Oppure, quanti gradi di separazione ci sono tra un grande filosofo europeo, Giorgio Colli, con un giornalista come Tiziano Terzani? Oppure, ancora più difficile, quanti gradi di separazione ci sono tra Pinocchio e uno scrittore obliquo come Giorgio Manganelli? Per scoprirlo bisogna vedere questa mia tappa nel viaggio nell'Italia del Giro. Beh, il viaggio nell'Italia del Giro... Mi chiedevi della RAI servizio pubblico? Eccolo. Servizio pubblico. Nessun grado di separazione, pensavo stessimo riparlando di Francesca Michelin. No. Bella anche quello canzone. Però è stato un bel servizio pubblico l'Eurovision su Rai 1, eh. Sono convinta che l'Eurovision su Rai 1, hashtag va bene, sia un bel servizio pubblico. Ma dobbiamo parlare del giro, servizio pubblico. Ce l'abbiamo al telefono? Il conduttore di questo viaggio molto molto singolare che ripercorre le tappe del Giro d'Italia. A suo modo, adesso glielo chiediamo un po'. Viaggio nell'Italia del Giro. Ci colleghiamo subito con Edoardo Camurri. Ciao Edoardo. Ciao. Eccomi, buongiorno, ciao, ben ritrovati. Senti che verva di quello che sta facendo tutto il Giro d'Italia. Che meraviglia, Edoardo. Chissà in che parte d'Italia. Meraviglioso. Ma poi sono stato preceduto dalla vostra introduzione che mi sembrava la Ida, quasi, insomma. Vabbè, ma noi siamo sempre così. La Ida c'è dopo, comunque. No, secondo me dopo abbiamo Puccini, però Puccini, va bene anche la Ida. Va benissimo tutto, insomma. Allora, raccontaci. Non so, la tappa più bella. Partiamo subito, facciamo subito le domande. La tappa che ti è piaciuta di più, quella di meno. meno le cose? Raccontaci. Guarda, io direi che ogni scelta è un'ecatombe di possibili. Oh mamma mia. Quindi per citare Kierkegaard, no, allora se tu mi chiedete la tappa che mi è piaciuta di più, beh, allora le tappe devono essere ancora raccontate. Viene in mente una, la penultima tappa del Giro d'Italia. Spoiler. Allora, il Giro d'Italia quest'anno si chiuderà tra pochi giorni a Torino, no? Nell'ultima tappa Cuneo-Torino. Nella tua Torino? Nella mia Torino, partendo da Cuneo, che è la porta delle tue langhe, anche delle mie langhe, Daniele. E vincono sempre i piemontesi, evviva! Ciao mamma! Tutti i piemontesi qua, tutti qua! La tappa precedente, noi ci siamo concentrati, eravamo in Occitania praticamente. Sì. E in un posto, siamo andati in un posto straordinario che si chiama Elva. Ah. Elva è un paesino in montagna al confine con la Francia, in Occitania, che è il paese più isolato d'Italia, più povero d'Italia, un posto incredibile, assurdo, e noi siamo stati lì ad Elva ecco, con un abitante, il signor Franco, uno degli abitanti di questo paese, e abbiamo fatto una specie di, lo abbiamo raccontato completamente questo luogo straordinario, dimenticato, una specie di far west dietro Torino, insomma, in Piemonte. Come venivate accolti nelle varie tappe? Perché un tempo, quando arrivava la televisione, faceva clamore la storia della televisione italiana, i libri di storia della televisione lo raccontano, ma secondo me è ancora così. C'è il pescatore, ha salutato un pescatore a un certo punto in una puntata. Sì. C'era il pescatore che lo guardava come ma questo da dove è arrivato? Una scena stupenda. Ma anche perché il pescatore era un pescatore di trote, che pescava mosca, e io lui gli ho posto un problema filosofico un po' per me intelligente, lui mi ha preso giustamente per matto, perché gli ho chiesto se lui riesce a pensare come pensa una trota. Perché quando tu peschi a mosca, che è un problema di ontologia, pensarci bene, cioè, qual è il mondo ambiente di una trota? Lo sa, visto che la trota non è interrogabile, ma lo sa chi la pesca, costruendo fisicamente le esche che possono attrarre la trota, per cui è... Sì, però sì. Come venivi accolto? Non puoi svicolare la domanda di Marta. No, allora noi non veniamo devo dire che noi siamo piuttosto insomma delicati, e anche non è che uno si immagina arriva alla televisione, 8 tir, eccetera. No, se arriviamo lì con una macchina, un furgone, la bicicletta, ogni tanto. La bicicletta, insomma, non è che siamo particolarmente visibili, per cui insomma, non è che ci filano tanto. No, non puoi dire così. Io ero già qua a farmi tutta una poesia. No, uno arriva a fare cose, poi ogni tanto sì, qualcuno che viene curiosa, fa capolino, eccetera, però è una cosa normale. Però scusa, siccome è una trasmissione che si occupa di televisione, facciamo una domanda seria televisiva. Dai, a chi ti sei ispirato? Sergio Zavoli, Enzo Tortora, Mario Soldati, Ella. Dici, c'è quella tradizione lì, quello sì, è vero. Ecco. C'è quella tradizione che era proprio l'immensa tradizione del racconto televisivo, del viaggio in Italia, ed è una tradizione che noi di volta in volta, insomma, ci sono alcune interviste che noi mentre giriamo le chiamiamo con un nome in codice, che sono le zatterinate. Ah, da zatterinate. Certo, io sono lì, sono magari con l'autore della puntata, vi do di gomito e dico, senti, adesso questa la facciamo come zatterinata. E lui mi dice, sì, facciamo la zatterinata, o viceversa. E l'intervistato fa degli occhi anche lì da trota, perché sembra non capire. Perché zatterinata? È un omaggio a Ugo Zatterin, uno di questi grandi viaggiatori. È un omaggio a quella TV degli anni 60, in cui le persone venivano intervistate con la voce fuori campo, come col pescatore. Per cui mi metto a filo di camera, proprio a filo della telecamera, chiedo alla persona di far finta di essere sorpreso mentre fa un'attività, e come poi si svolge un dialogo un po' surreale, e questo è un omaggio che noi facciamo a quella televisione di antica, cioè recuperiamo una tecnica ormai molto poco usata, ma che in realtà si dimostra ancora efficace, come se uno dovesse scrivere un racconto, andarsi a leggere i racconti di Chekhov e da lì imparare un trucco. Capito. Ma tu ti intendi di ciclismo? No, ovviamente no. Non ho capito. Tu ti intendi di ciclismo? Ovviamente niente. No, niente. ormai un po' me... No, anche perché un po' me ne sto iniziando a intendere, ma pochissimo, perché la fortuna è che tu fai questi 2 mesi di riprese in giro per l'Italia con una squadra Rai meravigliosa, e a volte ha a che fare con persone della Rai che invece hanno lavorato nel Giro d'Italia, hanno fatto le riprese. Un anno io ho lavorato con un assistente alle riprese che era quello che nel Giro d'Italia guida la moto. Ruolo difficilissimo, lavoro difficilissimo, e quindi ho un sacco di aneddoti, spiegazioni, insomma analisi che mi arrivano dalle persone che ho la fortuna di incontrare con cui lavoro. È che a me piace quest'area disincantata di Edoardo Camurri, che non è mai nella parte di quello che fa televisione, è sempre un po' così. No, perché in lui è il più televisivo dei non televisivi giornalisti, no? Segnala, quindi... perché la puoi usare ancora, Edoardo, questa la puoi usare perché è bella, il più televisivo mi ha promosso, vedi Edo, vedi male, Edoardo, mi sta promuovendo, Mar. Non è male questo. Non è male, però è che, però volevi dire qualcosa? No, che mi piace questo tuo, questo tuo atteggiamento, quelli che fanno televisione ci credono troppo. Anche quelli che fanno radio. Ma no, dai, scherzo. No, a differenza di quelli che fanno radio che poi si divertono, quelli che fanno televisione ci credono tantissimo. Invece mi piace questo tuo disincanto, che è così, la curiosità nell'affrontare il mezzo. Bello, sì, perché è il modo più giusto, dai. Ma guarda, quello del programma è che è proprio un programma picaresco. Cioè, è proprio un'avventura. Tu immagini una specie di un gruppo di 6 o 7 persone che prende... E per 2 mesi sta in giro per l'Italia e sta unito insieme, viaggia come una compagnia proprio teatrale, che fa una specie di tournée e la tournée però è, come dire, è l'Italia che ci viene incontro, che ci viene mostrata e che noi a nostra volta mostriamo ai telespettatori, ma con questo proprio elemento di sorpresa e di avventura, per cui cerchiamo di mantenere quella, così, quell'immediatezza, quel racconto un po' sporco, ma per restituire la sorpresa e la bellezza di cui noi siamo i primi spettatori, ecco, vogliamo restituirla anche veramente ai nostri telespettatori. Tutto qua è molto semplice, è solo divertente. Sì, è semplice, però lui non lo dice, ma lo dico io, Aldo Grasso, no? Sì, che un po' conta sulle cose di televisione, ha scritto di lui delle cose pazzesche. Beh, allora è una medaglia, ma lo diciamo tra noi, non lo diciamo. Lui diciamo. Si schermisce. Lo diciamo. Allora, io non ho dato l'appuntamento col viaggio in Italia del giro, perché va in onda su un sacco di canali. Allora, alle 21... Bisogna prima fare Rai. Respirare, fare prima un sospiro, immagazzinare l'aria. 20:10 su Rai 3. 20:10 su Rai 3. Sì. Poi, okay. 21 Rai Storia. Sì. Alle 18 Rai Scuola. E poi c'era Sport 1 al mattino. E poi viene replicata sulle storie a 12:30, se ricordo bene. Vabbè, ma sei praticamente insomma, sempre in televisione. TV, molto facilmente troverete Edoardo Camurri. Cioè, uno può capire Gadda o leggendo Gadda o cercando di capire gli orari della messa in onda. È vero. Perché è una prova divertente. Bravo. È quello di Omero, è il gomitolo. Che meraviglia, che meraviglia. Grazie Edoardo Con Camurri, viaggio nell'Italia del giro. Come pensa una trota. Esatto. Sì, ci non lo scopriremo. Cosa pensa una trota? Cosa il mondo una trota? La stessa domanda lo posta anche uno studioso di Lichenia, Cortina d'Ampezzo. Gli ho detto: ma qual è il mondo ambiente di un lichene? E lui mi ha detto: no, il secco e l'umido, ed è una cosa meravigliosa. Per un lichene il mondo è un passaggio continuo tra la secchezza e l'umidità, mentre per noi il mondo è un passaggio continuo tra pensieri, idee, luci, colori, sapori, sentimenti. Il mondo è complesso. Per un lichene o è secco o è umido. È come la raccolta differenziata, però. Beh, sì, insomma, un po' come la raccolta differenziata. Ciao Edoardo! Grazie, baci, ciao. Viva il giro, e adesso una piccola pausa. Una piccola pausa perché devo riflettere tra secco e umido. E tra troppo. Tra poco, tra pochissimo. Radio Tube. E come passa in fretta il tempo quando ci si diverte, quando abbiamo questi temi così belli, così importanti, così ricchi, con tutti questi ospiti. Ma chiudiamo. Una chiusura. Beh, io sono già molto emozionata. Poi l'italiano più famoso al mondo, sì, probabilmente. Sì, gli ascoltatori lo sanno che io quando dico grande così sono sincera. No? Allora, io direi che ci ascoltiamo una brevissima clip per presentare questo grandioso evento del 25 maggio alle 21, Open Air Theater di Area Expo a Milano, ma sarà anche in televisione, quindi anche chi non sarà fisicamente a Milano lo potrà vedere in TV. Abbiamo lo facciamo dire da loro nella clip. La idea di Bocelli Zanetti Night è nata dopo la finale di Champions, l'ultima, e approfittando che ci sarà questo trofeo dove San Siro ospiterà questo grande evento, poterlo fare insieme a Andrea Bocelli per me è un grandissimo onore. Sono interista da sempre, e sono naturalmente un grande ammiratore di Zanetti, che è stato la nostra bandiera e continua ad esserlo. È interista da sempre, quindi sono circondata da interisti. Uno è accanto a me in buona studio compagnia. E l'altro, con un po' di batticuore, è in collegamento con noi, quindi auguro buona serata e benvenuto ad Andrea Bocelli. Buonasera Andrea. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Interista da sempre, vero? Da sempre, da quando ho preso contatto col calcio, e si era nei primi anni 60, ahimè, lo devo dire, e all'epoca giocavano Sarti, Burnici, Facchetti, Bedin, Guarneri, tutti, Jair, Mazzola, Domenghini, Suarez e Corsa. Era la grande Inter che insomma ci faceva sognare tutti. E allora io ero in collegio e fui contagiato da questa febbre dell'Inter, insomma, e soltanto che poi ho commesso l'errore di trasmettere questa febbre anche ai miei figli, che hanno dovuto soffrire molto. Vabbè, però è una sofferenza. È vero, un'altra generazione di giocatori, adesso sì, è un po' più difficile, un po' più... Però Zanetti e compagni ci hanno fatto sognare nel 2010, abbiamo passato un anno fantastico. E adesso due campioni assieme, Zanetti e Bocelli, per fare che racconto. Cosa succederà il 25 maggio, Andrea? Ci sarà un concerto, è stato organizzato dalla fondazione che porta il mio nome e da quella di Javier Zanetti, appunto perché entrambe le fondazioni hanno una mission in comune, che è quella dell'educazione di bambini che vivono in paesi poveri. Se si vuole pensare a un mondo migliore bisogna rifarsi da lì. Tra l'altro so che tu ti stai dedicando molto ad Haiti, molto ad alcuni progetti in quelle zone. Un amico, padre Rick, è un sacerdote che arrivò ad Haiti giovanissimo e quando vide la situazione capì che era utile fare una cosa di questo tipo, tornare in America, iscriversi a medicina, laurearsi e tornare lì come medico oltre che come sacerdote. E lui la mattina alle 6:30 celebra la messa e poi sta in sala operatoria fino a tarda sera, insomma fino a notte. E quello che colpisce, che come tutte le persone di quella fatta, sono sempre felici. Non so, c'è qualche mistero dietro a questa cosa. Allora, il 25 ci saranno. Io già ho dei nomi che... Allora, Gianna Nannini, Schini, il maestro Zubin Mehta, Giuliano San Giorgi, Roberto Vecchioni, Il Volo, Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Lorenzo Fragola, Laura Pausini in collegamento. Ma ci sono dei nomini così, dello sport, di secondo piano, tipo c'è un certo Pelé. No! Sì. Sì, c'è un certo Pelé che viene a Milano. Fantastica questa cosa, perché... Pelé è proprio un mito assoluto, una di quelle leggende come Cassius Clay, alias Muhammad Ali, insomma, persone che veramente hanno fatto la storia dello sport mondiale. No, poi è bello perché è anche un po' il ritorno in un centro, quello appunto di Expo, certo, che è stato al centro del mondo, con un tema così importante come appunto l'istruzione e l'educazione dei bambini nei paesi in difficoltà, nella settimana della Champions. Quindi, insomma, è mettere un tema importante al centro di una città importante in un momento importante. Ma sì, perché poi è importante che i mondi, anche più diversi tra loro, vengano a contatto, perché questo è importante. Io ricordo un fatto che mi colpì molto. Padre Rick una volta ha portato dei ragazzini di Haiti a Forte dei Marmi. Forte dei Marmi è un po' una specie di paradiso terrestre dal punto di vista del benessere, eccetera. E io gli chiesi, ma come mai... Perché portare dei ragazzi che vivono in quelle condizioni che sono le più disastrose che uno possa pensare, portarli a Forte dei Marmi? Lui mi disse, questo è importantissimo perché i ragazzi devono imparare a sognare, devono imparare che devono vedere quello che esiste al mondo e devono sognare di poterlo raggiungere. Verissimo. E poi la musica e lo sport in questo hanno in comune, no? Fanno sognare. Ecco, allora io vorrei fare un'ultima domanda ad Andrea Bocelli, però voglio ascoltare solo qualche secondo di qualcosa che è successo qualche giorno fa. Ragazzi, brividi, io sono standing ovation alla radio per Andrea Bocelli. Andrea, Leicester, che ha vinto e mantenuto la promessa, sei andato a cantare il Nessun Dorma alla festa di questa? È un'altra storia, una storia alla fine potrebbe essere anche definita un gioco, perché amo il calcio, perché questa dell'Leicester è stata una bella storia che i giornali italiani hanno cominciato a raccontare un po' di mesi fa, perché alla testa di questa squadra c'era un italiano, insomma, per tante ragioni. Allora io gli telefonai a Ranieri e offrì questa piccola cosa, lui fu contento, poi abbiamo realizzato questa partecipazione che poi ha avuto una visibilità incredibile, sì. non mi sarei mai aspettato una cosa così, no? Ed è proprio questo che volevo chiederti: come ti sei sentito ad essere ancora una volta il simbolo dell'Italia del mondo? L'italiano famoso al mondo, lo sai Andrea, diciamolo. Lì rappresentavo solo veramente una strana curiosità in mezzo a quella gente, perché loro erano lì tutti per festeggiare un evento storico, perché era il primo scudetto di quella squadra, no? In tanti anni. Quindi c'era un delirio proprio. E io ho detto, adesso vado lì, canto Nessun Dorma. Devo dire che per qualche secondo ho avuto veramente paura che non si accorgessero neanche della presenza. Poi invece Puccini, devo dire che ha ancora una volta fatto breccia. E allora c'è stato un grande silenzio, è una cosa impressionante, perché da un rumore assordante di quel tipo sentire poi il silenzio fa veramente impressione. Poi insomma ancora il boato dopo il finale, veramente è stata un'esperienza incredibile, sì. Allora io voglio ricordare l'appuntamento 25 maggio alle 21 all'Open Air Theater di Area Expo a Milano. Ci sono aperte anche gli SMS di solidarietà che si mandano col 45592. 45592, lo mando subito. Sì, 45592. Poi, fondamentalmente lo scopo di tutto è questo. È fantastico. Cercare di raccogliere fondi per questo. Lo ricordo anche il 26 su Canale 5, perché così il messaggio avrà ancora più forza. Grazie ad Andrea Bocelli. Grazie a voi, buona giornata. Salve. Grazie mille, grazie Andrea. Tu anche sai per che questa. I miei genitori si ricordano ancora un concerto a Portofino di Andrea Bocelli, una roba. Che carini. Anche quello andò in televisione. Che carini, che carini. Salutiamo i signori Bellasi. Partecipare a un evento con Andrea Bocelli è una cosa straordinaria. Lui mi ha sentito che persona. Beh, io sono ancora un po' emozionata. È finito il tempo. Sull'Inter finisce il tempo a nostra disposizione per Radio Tube. Il più severo dei registi. Filippo Aureggi, il più simpatico, indispensabile. Dei redattori Cristian Goldoni. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Il più inutile dei conduttori. Vabbè, però, dai, ci rivediamo lo stesso sabato prossimo. Ciao Marta. Ciao Daniele.